bastardo fiero, quello che sono. L'immagine di un sogno perso la ritrovo dentro l'universo, scritto con la speranza che qualcosa cambia. La vita divina, l'Italia ci rapina, i grandi crescono mentre la merda li cucina. Schiavi di una virtù assassina, soldi filtrano cocaina. Io parlo dell'Italia di Buscetta, Provenzano e Salvatore Rina. L'Italia dei valori, politici rapinatori, falsi idealistici traditori, bruciano sogni, spaccano cuori. Solo odio tra le mani, vivo senza un domani, tra giorni da cani. Ricchi imprenditori comprano angoli di Sardegna, quello che ci resta solo carta e penna. Schiavi di una morale eterna, parole su parole sporcano l'anima di uno scrittore, erede di un qualcosa che nessuno più crede. Mentre la vita mi chiama, mi sento bersaglio di questa società umana, bersaglio di questa società umana. Occhi tappati per non vedere, cambiano piani signori del potere. Mani che stringono mani, chiudono a porte le nostre domani. Occhi tappati per non vedere, cambiano piani signori del potere. Mani che stringono mani, chiudono a porte le nostre domani. Ho la rap fotta dentro ogni singolo osso e me la sento addosso, a volte troppo addosso, ma l'indosso come la cicatrice lasciata dal cane dopo che ha morso. Così vedo che un'idea diventa punibile, uno sbaglio appena interminabile, tra mazzette e accordi, tutti ciechi e sordi, galere chiuse per chi ha i soldi. La nazione è andata in vacca, con paragone in proporzione alla dimensione della sua cagata. San Pietro custode, custode chi ha la carta, tra chi cerca speranza sul fondo di bottiglia e chi fa il pacifista con intenzione di guerriglia. Politica e chiesa manipolano la buona famiglia. Quindi sinistra, centro, destra, fra non mi interessa. Lontano dalla messa, lontano dalla ressa, lontano dalla tresca. Tanto chi ruba spartisce con le altre viceversa. Tra chi sbuffa e chi tiene in un cassetto sogni che ormai è sulla muffa. Ho capito che in Italia si regalano speranze ma si vende fuffa. Occhi tappati per non vedere, cambiano piani signori del potere. Mani che stringono mani, chiudono porte del nostro domani. Occhi tappati per non vedere, cambiano piani signori del potere. Mani che stringono mani, chiudono porte del nostro domani. Io tratto temi sociali, problemi veri, problemi reali. E parlo di degrado nei quartieri popolari. La differenza tra il ricco e il povero, chi dorme nella strada senza un ricovero. La differenza tra l'uomo distinto e l'essere istinto. L'Italia, paese democratico. L'Italia del voto, l'Italia del peccato. L'Italia del disoccupato. L'Italia finta di pintero di tratto. L'Italia delle mazzette per un appalto. Questa è l'Italia, l'Italia del cazzo. Sono solo un altro che quel poco che ha se lo tiene. Perché se guardo bene vedo che il mondo è governato da iene. Questo rap preme, sardo doc, passato al passato, torno indigeno. Presente esattore, tassa sull'ossigeno. 2010 Sardegna al mio fianco, rano e fioricine l'impianto. Trasformiamo preghiere, pianto, incanto. Intanto, se tanto da tanto, io non mi fermo se stanco. A meno che non schiatto, il foto bersaglio con l'autoscatto.